Morgan, hai ereditato da tuo padre il piacere di consolare gli oppressi. Ma devi prima di tutto pensare al bene dei tuoi genitori, altrimenti la tua anima andrà al diavolo. Vai a Parigi, dai grandi signori. Aut Cesar, aut nihil. Parigi, 24 marzo 1778. Messie le Français hanno migliorato il loro gusto solo in questo senso. Adesso possono ascoltare anche della buona musica. Ma quanto a riconoscere che la loro musica è cattiva, o almeno a capirne la differenza, Dio ci guardi! E il canto, se soltanto non cantassero delle arie italiane, perdonerei volentieri i loro muggiti. Ma sciupare così della buona musica è intollerabile. Ringrazierò Dio se esco di qui con il gusto intatto. I cantanti in Francia hanno la cattiva abitudine di far vibrare la voce e di marcare le semiminime, talvolta persino le crome, con una nota tenuta. E non lo sopporto. La voce umana vibra già per conto suo, e così in una certa misura è bello, è la natura della voce, la si imita sugli strumenti a fiato, ad arco, persino su quelli a tastiera, ma non bisogna mai superare i confini della natura. Qui, a Parigi, mi fanno pensare all'organo quando il mantice dà degli strattoni. Mozart compose due ariette per canto e pianoforte di gusto francese, Oiseau si tous les ans e Dans un bois solitaire. Sono arie galanti, di sensibilità arcadica e pastorale. In un alternarsi di episodi, allegro, adagio, presto, allegro, un lieve dramma si consuma in un appartato boschetto. Amore, con le sue frecce, riprende possesso del giovane che intendeva fuggire alla sua dolce tirannia. Il testo di Dans un bois solitaire e di Oudard de la Motte. Je devrais